Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. It's like I'm immune for, I don't know, maybe a long time, maybe a short time, it could be a lifetime, nobody really knows, but I'm immune, so the president is in very good shape. Allora Giulia, immune, si dice immune, questo immune. Abbiamo capito. Forse per ora, forse per un lungo tempo, forse per a lifetime, forse per tutta la vita. Quindi poi parla di sé in terza persona, era Donald Trump naturalmente. Che dice di essere immune? Che dice di essere immune e di essere in great shape, cioè in grande forma. Questa è l'intervista che ha concesso ieri telefonica a Fox News a Maria Bartiromo, che aveva già raccolto la sua precedente intervista. Ha parlato di molte cose, tra le quali il fatto che cercherà in tutti i modi che il secondo dibattito, quello che era stato inizialmente previsto per il 20 di ottobre, forse slitterà di qualche giorno, forse non ci sarà, quello che avrebbe potuto essere in modalità remota, ma così Trump non lo vuole fare, e ha continuato a ripetere che lui è pronto, che nei prossimi giorni farà tutte le apparizioni pubbliche che aveva in programma di fare. Non ci sono i dati ufficiali su una sua negatività o assenza di anticorpi, quindi dobbiamo credere allo stringatissimo comunicato stampa che ha fatto il suo medico e a queste parole che ha detto Donald Trump a Maria Bartiromo. Naturalmente questo è su tutte le prime pagine dei giornali, perché si aspetta ancora un pochino più di trasparenza e continua a essere insomma molto, molto discutibile questa modalità di comunicazione delle reali condizioni del presidente. Poi però c'è anche spazio anche sul Wall Street Journal per due notizie importanti di oggi. Come sapete, gli Stati Uniti, altro che il nostro titolo 5, c'è autonomia totale su come gli stati organizzano le votazioni, i ballottaggi, il voto per posta, e per esempio oggi in Georgia si aprono le urne fisiche e quindi poi naturalmente i risultati verranno resi noti più tardi, però oggi si aprono e si chiama early voting, cioè votare in anticipo. Ma poi questa cosa forse tu ce la puoi spiegare, no? Sai, davvero noi non ci rendiamo conto, cioè ogni stato è davvero, forse per come sono nati gli Stati Uniti, che davvero sono, non è stata poi alla fine una riunificazione, sono nati quasi uno dopo l'altro per aggregazione, quindi è molto difficile scalfire questo sistema federale. Comunque appunto si aprono le votazioni, il tema invece in Texas e in altri stati continuano le battaglie legali per queste, dovete immaginare come delle cassette della posta nelle quali chi vota per posta può inserire la sua scheda, esatto. In alcuni stati come il Texas, con governatore repubblicano, questa notizia è su tutti i giornali, volevano fare una sola sostanzialmente casella postale per ogni provincia, per ogni county. Questo obbligava persone a fare tantissimi chilometri in macchina, questo è stato vietato, insomma ci sono tantissime così controversie legali attorno a queste elezioni, alle quali ufficialmente, ricordiamolo, mancano ancora 3 settimane. E poi l'altro fatto molto importante, titolo del Wall Street Journal, titolo del New York Times, titolo del Washington Post, che oggi Amy Coney Barrett, la nomina ufficiale di giudice per la Corte Suprema scelta da Trump in quel famoso gathering di 10 giorni fa, di sabato non scorso, quello prima, che probabilmente è stato il focolaio, l'inizio del focolaio nel giardino dell'orso della Casa Bianca, oggi si presenta in Senato per fare la sua proprio autopresentazione. Da domani i senatori della commissione che si occupa di queste cose, la Judiciary Committee, potranno farle delle domande. Se la tabella di marcia resta questa, benché ci siano 3 persone che non potranno partecipare, 2 perché positive e 1 perché in quarantena, 3 senatori, probabilmente si riuscirà a ufficializzare la nomina, così dicono i giornali, prima delle elezioni. Di cos'altro si occupano i giornali in prima pagina, così a primo sguardo? Beh, poi insomma per gli americani c'è la vittoria dei Los Angeles Lakers, che ieri hanno battuto in finale della National Basketball Association, naturalmente la stagione più pazza del mondo, tra l'altro non era mai finita così tardi, normalmente finisce molto prima. Hanno battuto i Miami Heat, grande festa a Los Angeles, anche ricordando naturalmente Kobe Bryant, che dei Los Angeles Lakers era stato la bandiera, che ricordiamo è morto in quell'incidente in elicottero il 26 gennaio di quest'anno, quindi prima di queste, non ha vissuto questa stranissima stagione dell'NBA. Mentre su tutti gli altri quotidiani, insomma, dalla Spagna alla Francia al Regno Unito, c'è il Dios en la Tierra, lo definisce El Mundo, naturalmente Nadal, qui fotografato con la sua mascherina. Il gioco di parole, Dio in terra, no? Esatto. E, tutti i giornali spagnoli, l'imperatore, infinito, ABC lo definisce infinito. Fa effetto che persino nel Regno Unito, dove peraltro ieri è stato il giorno di un altro grande sportivo, Hamilton, solo l'Independent là in prima pagina. E invece molto curioso il titolo di Metro, che è non lockdown ma Locktober, perché molto probabilmente oggi Boris Johnson è atteso alla Camera dei Comuni, la Camera bassa del Parlamento, poi parlerà alla Nazione e probabilmente annuncerà queste nuove misure, che se non saranno un vero e proprio lockdown ma sarà probabilmente, riguarderà molto più le città del nord, per esempio Liverpool, che non quelle non Londra in particolare. Però nuove restrizioni sicuramente ci saranno. Sentivo prima che parlavi con il responsabile di quei bauli vuoti. Ho visto le sì. immagini di sabato qui a Milano e nel Regno Unito, naturalmente. Abbiamo visto del resto anche in Germania il dramma dei cinema del Regno Unito, gli spettacoli. Pensate Londra, tutti i musicals, insomma è un problema davvero ovunque, soprattutto per Londra, che si è davvero svuotata. C'è chi però vede la luce in fondo al lockdown, no? Sì, in Israele oggi si ha Haaretz che Jerusalem Post. Sapete che Israele è l'unico paese al mondo che di fatto sta vivendo già un secondo lockdown, però un po' anche perché lì la gente comincia a essere veramente difficile da convincere della necessità di queste restrizioni. È stato confermato che se gli indicatori restano quelli dei giorni scorsi, tra una settimana finirà questo lockdown. Mentre a Hong Kong, South China Morning Post di oggi, hanno chiuso due hotel a 5 stelle lusso perché ci sono dei nuovi focolai. Quindi forse Hong Kong, che se ci pensate è ancora l'unica area della Greater China da cui dove possiamo trovare un'informazione semilibera, il South China Morning Post lo è, e le notizie sono queste. Quindi quando ci chiediamo come mai in Cina non ci siano più contagiati, forse appunto è un problema semplicemente che non lo veniamo a sapere, ma è molto difficile pensare. Non arrivano a galla. Esatto. Abbiamo ancora qualche secondo, giornali tedeschi non ancora citati, forse gli ultimi titoli? Sì, anche lì c'è molto, nel senso che Mutti Angela Merkel, sicuramente anche lei, se sarà necessario, ci rimetterà di nuovo la faccia, il suo peso, eccetera. Però anche in Germania cominciano a essere a scalpitare i tedeschi, anche perché queste misure annunciate, che probabilmente verranno confermate, per mettere in quarantena chi torna da paesi considerati a rischio, per impedire gli spostamenti tra regioni, adesso che arrivano, a parte la stagione natalizia, ma i tedeschi hanno anche a cavallo tra ottobre e novembre il ponte di Ogni Santi, che dura una settimana circa. Normalmente tutti vanno in vacanza, probabilmente non potranno farlo, e forse contrariamente ai luoghi comuni, anche ai tedeschi questa cosa comincia a dare, insomma, queste restrizioni cominciano a dare un po' fastidio. Grazie Giulia, abbiamo iniziato la settimana con Effetto Mondo, Effetto Giorno. È tutto per la puntata di oggi, con Gianmarco Ferronato in regia, Jacopo De Franchi in redazione. Noi ci risentiamo naturalmente domani. Vi lascio ad Hashtag Autotrasporti. Martina e oltre 500.000 di aziende professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba, perché è semplice, è completa e conveniente, da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.